Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto. Che cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona. E la chitarra? Suona. Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti piace? Viaggiare, tradire il fare, il mare. Cosa ti piace? Il mare. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Sei felice lo quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto, tanto. Qual è il tuo impegno? Quanto, quanto, quanto, tanto, tanto, tanto. Innamorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto, tanto. Come va il mondo?